giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Il 27 ottobre 1991 cade di domenica. A Bari il cielo è terso, l'aria tiepida, la città è addormentata. Alle 4.30 si sente un sibilo assordante, poi il fragore di vetri in frantumi. Il teatro Petruzzelli in fiamme. Gennaro Poglieri, 25 anni, cameriere del Circolo Unione, è il primo a dare l'allarme alla polizia. Parte la prima squadra dei vigili del fuoco e in 5 minuti è in corso Cavour, ma è troppo tardi. Il sistema antincendio manuale non entra in funzione. Lino Patruno, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, si ricorda bene quel 27 ottobre 1991. Ebbe una telefonata a casa all'alba, diciamo verso le 5 e mezza, con la quale mi avvertivano che c'era il Petruzzelli in fiamme, e io corsi subito lì. E ricordo questa scena apocalittica col Petruzzelli che ancora fumava, c'era molto calore attorno al teatro e c'erano soprattutto moltissime persone sconvolte, quasi in lacrime, che dava l'idea di quanto la cosa avesse colpito la città. Veramente era una scena di grande partecipazione ma anche di grande dolore, lo dico senza enfasi. Poi subito dopo corsi al giornale, dove facemmo nel giro di un'oretta un'edizione straordinaria sul logo, e il giornale poi fu distribuito, diciamo, nel corso della mattinata. Quindi una partecipazione assolutamente personale, ma anche, diciamo, una partecipazione professionale, perché con l'edizione straordinaria, al di là, diciamo, della vendita, che non aveva nessuna importanza, volevamo testimoniare il dolore anche del giornale, lo sconcerto anche del giornale di fronte ad un evento che si capiva già che avrebbe colpito a lungo la storia della città. Dalle prime indagini emerge un sospetto che col passare delle ore diventa una certezza. Non è stato un incidente. I primi sopralluoghi dimostrano l'esistenza di 8 punti di fuoco, di una porta di ferro forzata dall'interno, di un piede di porco nascosto sotto il palcoscenico, e poi una telefonata anonima, giunta al 113 la sera prima, avvisa la polizia della presenza di una bomba nel teatro. Il teatro Petruzzelli nasce oltre un secolo fa. Nel 1877 viene bandito un concorso per il progetto del nuovo Politeama. Per il vincitore è previsto un premio di 12.000 lire e la concessione del suolo per la costruzione dell'edificio. Nel 1895 viene approvato il progetto dei fratelli Onofrio e Antonio Petruzzelli, imprenditori edili varesi. 3 anni dopo partono i lavori. Il teatro viene inaugurato il 14 febbraio del 1903 con l'opera Gli Ugonotti di Meyerbeer. Nel 1954 il Petruzzelli viene dichiarato teatro di particolare interesse per il prestigio e l'importanza della sua attività e si trasforma in centro di produzione di opere liriche e in centro polivalente di cultura. Nel 1985 l'ente artistico Teatro Petruzzelli fonda una propria orchestra lirica e nel 91 dà vita all'associazione filarmonica Orchestra Teatro Petruzzelli. L'importanza del teatro cresce in modo rilevante. A Bari arrivano Rudolf Nureyev, Liz Taylor, Carmelo Bene, Carla Fracci, Luciano Pavarotti, Marcel Marceau, Jerry Lewis, Liza Minnelli. Il rogo del teatro Petruzzelli resta ancora un mistero. Dopo 13 anni e 3 processi, sul movente dell'incendio il buio è ancora fitto. Nel mirino degli inquirenti ci sono Ferdinando Pinto, accusato di concorso in rogo doloso, il boss Antonio Capreati, presunto mandante dell'incendio, l'usuraio Vito Martiradonna, Giuseppe Pisci, custode del teatro, Giuseppe Mestro, Francesco Lepore, presunti esecutori materiali. I sospetti si concentrano su Ferdinando Pinto. Il 29 ottobre e il 5 novembre 1991 il SISDE lo indica in 2 informative. Avrebbe ordinato il rogo per coprire un debito di 2 miliardi e 700 milioni. Si apre l'inchiesta. Il 30 giugno del 92 vengono recapitati avvisi di garanzia ai componenti della famiglia Messeni-Nemagna, proprietari del Politeama, a Ferdinando Pinto e al custode Giuseppe Tisci. L'accusa è incendio colposo. Ma il 21 aprile del 93 cadono le accuse. Tutte le piste portano a Ferdinando Pinto, arrestato il 7 luglio 1993 dopo le rivelazioni del pentito Salvatore Annacondia. Pinto avrebbe ordinato il rogo per intascare i soldi dell'assicurazione e il prestito contratto con la malavita organizzata. Ordini di arresto per Antonio Capriati, Savino Parisi, boss del quartiere Iapigia, e Giuseppe Tisci, mentre Vito Martiradonna, presunto cassiere del clan Capriati, riesce a fuggire. Gli indizi sono deboli e Pinto viene rilasciato. Il processo di primo grado si apre il 14 febbraio 1996. Annacondia racconta come l'incendio avrebbe dovuto provocare piccoli danni. Il 28 gennaio del 1997 il testimone Giovanni Lopiano viene ucciso. L'8 aprile 98 i giudici condannano Pinto a 7 anni e 8 mesi di reclusione per incendio doloso e reati fiscali. In appello, il 6 aprile 2001, Pinto è ancora condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione. Sentenza di primo grado confermata per Martiradonna, Capriati e Mesto, mentre a Tisci è concessa una riduzione della pena ad 1 anno e 8 mesi. Ma c'è un secondo filone d'inchiesta. Coinvolge Francesco Lepore, accusato di essere il secondo esecutore materiale del rogo. La sentenza arriva il 30 ottobre del 2000 con una condanna a 6 anni e 6 mesi. Il 10 maggio 2002 la Corte di Cassazione potrebbe mettere la parola fine al processo Pinto, ma il procuratore generale, Antonio Frasso, ottiene l'annullamento delle sentenze precedenti. La Suprema Corte invita i giudici di secondo grado a provare l'esistenza del movente e di possibili conti offshore che Pinto dice di possedere e a dimostrare l'attendibilità dei pentiti. È su queste basi che il 29 ottobre 2003 è cominciato il secondo processo d'appello, sul quale grava però l'ombra della prescrizione. La ricostruzione è l'altro nodo del caso Petruzzelli. Quando avverrà? Come e con che fondi? E soprattutto chi gestirà il nuovo teatro? L'edificio è privato, appartiene alla famiglia Messini-Nemagna, ma sorge su suolo pubblico. Di qui il lungo contenzioso che ha opposto Comune di Bari ed Eredi, paralizzando iniziative di ricostruzione. La situazione sembra sbloccarsi nel 1994 con il ripristino della cupola e del tetto. Ma i lavori finiscono qui. Una prima vera svolta arriva il 27 ottobre del 2001. Il Comune propone la costituzione di un ente lirico che raggruppi anche altri teatri cittadini e nel frattempo la trattativa con la famiglia approda ad un protocollo d'intesa firmato il 22 febbraio del 2002. I proprietari approvano il progetto della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici e artistici della Puglia. Si passa all'idea che solo una fondazione lirico-sinfonica possa garantire gli interessi di tutte le parti e il 21 novembre 2002 si giunge all'accordo. L'intesa tra proprietari ed enti locali è siglata alla presenza del nuovo ministro dei beni culturali, Giuliano Urbani. Compiti del nuovo ente la ricostruzione del Petruzzelli, la gestione dell'attività artistica dietro il pagamento di un canone di 500.000 euro annui alla famiglia. Dopo un breve iter legislativo, la fondazione diventa realtà il 29 ottobre del 2003 con l'approvazione della Camera. Il 18 dicembre successivo il ministro Urbani nomina i membri del Consiglio di amministrazione. Salvatore Anastasi in rappresentanza del governo, Mario Carriere per la Regione Puglia e Angiola Filipponio Tatarella per il Comune. L'ente, presieduto dal sindaco di Bari, Simeone Di Cagno a Brescia, convive con un'altra istituzione, la cosiddetta Fondazione per la Ricostruzione, come spiega ai nostri microfoni Salvatore Anastasi. La Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli Teatri di Bari è stata costituita con la legge 310 del 2003. La Lirico-Sinfonica Petruzzelli è una Lirico-Sinfonica come tutte le altre, nel senso che è un ente di diritto privato, quindi una fondazione di diritto privato, di prioritario interesse nazionale, sottoposta alle disposizioni di tutte le altre Lirico-Sinfoniche. Quindi si va ad aggiungere alle 13 fondazioni Lirico-Sinfoniche già operanti in Italia. La particolarità di questa Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli è che oltre all'attività lirico-sinfonica, l'intenzione ovviamente del governo con l'approvazione della legge è quella di attivare una promozione per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli, tant'è che come le altre lirico-sinfoniche la Fondazione potrà avvalersi di capitali privati e la speranza del governo è quella di aggiungere capitali privati alle risorse pubbliche per la ricostruzione del teatro. La Lirico-Sinfonica Petruzzelli ha un'altra particolarità rispetto alle altre, e cioè per il primo quadriennio, proprio perché non ha ancora un teatro disponibile, ma si baserà sulla rete di teatri baresi, infatti il vero nome è Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, proprio per per questo avrà un contributo forfettario omnicomprensivo stabilito dal ministro all'inizio di ogni anno e non andrà a regime se non prima del 2008 con le altre fondazioni. La fondazione, chiamiamola regionale Petruzzelli, perché è stata costituita durante la scorsa estate da Regione, Provincia e Comune di Bari, era una fondazione nata a seguito del protocollo d'intesa del novembre del 2002 tra la famiglia Messene Magna e appunto i tre enti che avevano stanziato 16 milioni e mezzo di euro per la ricostruzione del Petruzzelli. Nelle more dell'approvazione della legge statale, i tre enti hanno giustamente creato un contenitore, uno strumento giuridico per contenere questi fondi, questi ingenti fondi, sono un po' più di 30 miliardi come ho detto prima. I rapporti saranno ovviamente, una fondazione sarà complementare all'altra, nel senso che gli enti potrebbero decidere di far confluire le risorse e la fondazione stessa, quella regionale, nella fondazione statale, così come la fondazione statale, dato che ha questo regime transitorio per i primi anni, potrebbe fare solo l'attività di fundraising, quindi trovare i capitali privati per la ricostruzione, e la fondazione regionale potrebbe operare ancora la ricostruzione. L'accordo tra le parti risolve il problema della ricostruzione. Il 28 febbraio dello scorso anno viene aggiudicato l'appalto, firmato il 7 maggio successivo, per il primo lotto di lavori. Le opere riguardano il consolidamento della struttura, la predisposizione di tutti gli impianti elettrici. Ad eseguirvi è il Consorzio Recupero Patrimonio Artistico, costituito da 9 imprese locali. I lavori iniziano ufficialmente il 13 maggio del 2003 con il via libera del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, come dice ancora Anastasi. In questo momento la ricostruzione sta andando avanti abbastanza velocemente perché all'inizio del 2005 verranno terminati i lavori nel foyer, quelli derivanti dal primo lotto di soldi solo statali, quelli stanziati con la legge 444-1998, erano 20 miliardi di vecchie lire. In gennaio del 2005 dovrebbe essere poi presentato il secondo lotto di lavori, quindi messo in appalto il secondo lotto con le risorse di cui parlavo prima, stanziate da Regione, Provincia e Comune di Bari, 16,5 milioni di euro, più le risorse che eventualmente occorranno trovate con l'attività di promozione della Fondazione Lirico-Sinfonica Statale Petruzzelli. Orientativamente, almeno noi speriamo, all'inizio del 2007 il teatro dovrebbe essere completato. L'area intorno al teatro Petruzzelli sta tornando a vivere. Le transenne, gli operai, i macchinari che lavorano in modo incessante fanno ben sperare. Il teatro sarà presto restituito ai cittadini come sta nel loro diritto. In studio vi ha parlato Daniele Biacchessi, i testi e le interviste di Daniela Uva, la consola, Michele Contessa.